E abbiamo in collegamento telefonico con noi Bebo. Benvenuto su Radio Città Fucico. Beh, grazie, grazie Nutri, grazie a tutti, ciao. Contento di essere in diretta sulla mia amata radiolina. Questa è una cosa importante da dire, la tua amata radiolina. Infatti in realtà tu sei in onda la domenica alle ore 18 con il tuo fantastico, quindi è fantastico in realtà averti sulle nostre frequenze. È fantastico anche per me, dai, sentire che aria tira durante la settimana e non il weekend. Esatto, e infatti noi siamo all'interno del nostro Fucico Factory, noi parliamo ovviamente della musica che continua soprattutto in questo periodo, quindi in realtà diciamo è già un periodo molto complicato, soprattutto l'ultimo anno e mezzo per la musica, e lo stato sociale esce con 5 dischi. Abbiamo fatto la cosa più strana nel momento più strano, no? Si dice così. E quindi abbiamo provato a vedere se si poteva sfidare il mercato discografico, che ti dice pubblica un singolo periodicamente senza far passare troppo tempo e non ti azzardare a fare gli album. Abbiamo fatto tutto il contrario, cioè 5 canzoni per 5 dischi per 5 persone sotto lo stesso nome. Quindi insomma abbiamo provato a rimescolare le carte al massimo esponenziale, proprio perché non ci fidiamo più di quello che ci dicono il mercato, ammesso che non ci siamo mai fidati, ecco. Però abbiamo voluto vedere cosa succedeva. È anche una richiesta un po' antica quella di chiedere del tempo e dello spazio in più in un momento in cui va tutto veloce. Anche perché voi avete dichiarato, e sono pienamente d'accordo seguendovi da anni, lo stato sociale vince quando non vince, quindi effettivamente questa è una grande sfida, ma direi che ha già dell'incredibile. Non so se voi vi siete documentati, ma non credo sia mai successo che una band o comunque un collettivo facesse uscire un disco per ogni componente. Guarda, l'esempio che riportiamo spesso, perché poi ci siamo documentati, è quello dei Kiss, che quasi 40 anni fa pubblicarono 4 dischi, perché loro hanno 4 componenti, e fu un mezzo fiasco. Quindi ci siamo detti, vabbè, allora possiamo fare di peggio e ne pubblicheremo 5, perché noi siamo 5 e stiamo a vedere come va. Quindi non è proprio una prima volta, però diciamo nel mercato italiano forse sì. Che poi voi giocate sempre su questa cosa di fare un fiasco, poi ovviamente non lo fate, come parteciperete per la seconda volta anche a Sanremo, quindi diciamo che questo progetto preannuncia un po' Sanremo. Sì, lo preannuncia, ma senza dire chissà che, perché non c'entra niente. C'entra tutto e c'entra niente, nel senso che è lo stato sociale, ecco, mettiamola così. Il primo sanremese per metà sia il regime, chiamiamolo così, e per metà il futuro dello stato sociale. Invece questi 5 dischi sono un approfondimento, quindi diciamo che è come se fosse il riassunto prima della nuova stagione, ecco, mettiamola così. Anche perché in realtà anche questa cosa è molto, si può dire, rivoluzionario, perché di solito a livello discografico prima si va a Sanremo, poi si pubblica un album. Invece voi appunto arrivate a Sanremo con già 5 album pubblicati, uno a settimana. Tra l'altro, chi è il prossimo? Il primo sei tu? Il prossimo è Checco, che compare anche nel tuo. Sì, è un featuring. Mi sono fatto il featuring in casa, perché era bello, cioè, ho dei grandi artisti come amici, perché andare a chiedere qualcun altro. Tra l'altro questa cosa che è Checco è un po' una news che dovrei dire, non dire, insomma, sai quelle cose che fai, spoiler, non spoiler, sì. Però insomma, a casa nostra, su Radio Fucico, si può fare, assolutamente. Quindi si può dire, quindi il prossimo sarà appunto Checco. Io sono molto molto curiosa, in realtà sono proprio curiosissima di tutti e 5, diciamo che ascoltando attentamente il tuo si riconosce in pieno lo stile Bebo, quindi sono molto curiosa di scoprire gli altri. Poi appunto arriverete a Sanremo con Combat Pop, anche di questo effettivamente siamo molto curiosi, ma ci spoileri qualcosa o questo proprio non si può? No, c'è un embargo totale, già. Non vuoi fare come Fedez? Tra Sanremo con il pubblico e senza il pubblico, Fedez che ha fatto la storia con il brano, no, meglio non dire niente. Meglio non dire niente, però sì, effettivamente anche Sanremo rimaniamo in dubbio, cioè ogni giorno dicono qualcosa di diverso, pubblico sì, pubblico no, però a proposito di pubblico comunque ci mancano tantissimo i live, infatti noi all'interno del nostro Fucico Factory stiamo portando avanti diverse campagne, tra cui Fucico in concerto e Please Don't Stop the Music. Tu cosa pensi di questa situazione attuale? Ma guarda, per quello che riguarda Sanremo, io l'ho detto diverse volte, sarebbe stata una bella occasione per usarlo come se fosse un grande laboratorio e provare a stilare dei protocolli per la ripresa del settore. Però insomma, lavorando perché il settore riparta, perché se fai Sanremo col pubblico e poi dobbiamo stare fermi altri 8 mesi è un distacco dalla realtà ed è una presa in giro. Però pare che la RAI abbia fatto marcia indietro, si farà senza pubblico, il CDS è contento, quindi facciamo una cosa televisiva, basta, forse No, guarda, noi siamo davvero gli ultimi a sapere le cose in quanto artisti, però è anche vero che in un senso più ampio ci sono tanti studi, tanti esempi che arrivano dall'estero di riprendere le attività teatrali, concertistiche in senso ampio, solo che ci vuole la volontà istituzionale. In questo momento non abbiamo manco un ministro per i beni culturali, non abbiamo neanche un governo. Diventa difficile parlare con le istituzioni, ma io insomma non posso fare nient'altro che essere fiducioso. Dopo un anno, se molliamo la lotta, è la fine, e invece la lotta non bisogna mollare. Appunto, Sanremo comunque può essere una, insomma, una vetrina per dimostrare che le cose possono continuare, anche ovviamente mantenendo le, insomma, le distanze di sicurezza e tutti i protocolli sanitari, come giusto che sia. Sì, sì, assolutamente. Il punto è proprio quello lì, nel senso che è arrivato il momento della convivenza, brutta o piacevole che sia, con questa pandemia, e si possono trovare, secondo me, delle strade per far sì che le persone vivano in sicurezza, che ci sono dimostrate, insomma. Io torno a ripeterlo, a me dispiace essere considerato la penultima ruota del carro, perché c'è sempre che sta un po' peggio, però se una logistica o una fabbrica con un migliaio di persone i giorni possano andarci dentro e lavorare, non vedo perché non si possa trovare il modo per buttare dentro 50, 60, gradualmente, piano piano, persone a vedere un concerto. Quindi io penso che si possa fare, ci vogliono le volontà, ci vuole un gran battimento, ma questo è un settore pieno di gente che si sbatte, quindi io credo che non sarebbe così difficile poi arrivare a un obiettivo. No, infatti, anche secondo me, e giusto in questi giorni stavo ripensando a uno degli ultimi concerti più belli dove io sono stata, che è il vostro in Piazza Maggiore, quindi non so, ripensare a un concerto del genere oggi effettivamente sembra impensabile ancora per chissà quanto tempo. Quello lì sì, quello lì ancora per qualche tempo bisogna portare pazienza. Io poi, non a ripetere, sono comunque orgoglioso di questa band che non ha mai parlato della questione virus, non so, non ho mai fatto opinionismo becero su una tragedia, e quindi voglio ancora rimanere così, fedele alla linea, anche se la linea non c'è, diceva quello. E quindi io credo che bisogna aspettare dei mesi. Ho molta fiducia, probabilmente rimarremo magari piacevolmente stupiti, ma sono un ottimista nel corpo di un pessimista, quindi insomma ci credo, ma non fino in fondo. Beh, però comunque un briciolo di ottimismo c'è, ed effettivamente è quello che serve, soprattutto anche per avere questa sfida che incredibile che avete messo in atto, appunto, di tornare con 5 dischi per 5 artisti, appunto uno per ogni componente della band. Il prossimo sarà Checco e non vediamo l'ora di ascoltarlo. Ti chiedo come ultima cosa, poi ti lascio andare, che so che state promuovendo tantissimo questo progetto, noi siamo molto felici che insomma ci hai raccontato sui 103.1, con che canzone ci saluti? Andiamo ad ascoltarci adesso La senti questa forza, dello Stato Sociale, tratto dal nuovo disco intitolato Bebo, come uno dei 5 componenti, così, perché sono dei maniaci. Ciao, ciao, ciao, è stato un piacere, a te. L'altro giorno ero a casa, mi ha citofonato Checco che mi fa: Bebo, la senti questa forza? No, Checco, ma cosa ci fai a Roma? Tu abiti a Bologna, ma perché sei sotto casa? Bebo, questa forza parla chiaro. Ho capito, Vez, però... Bebo, questa forza dice che sei vecchio. Ma io ci sono ancora. Non sono vecchio. Sono appena entrato in una nuova giovinezza. Non ho nemmeno 40 anni. Non sono vecchio, Checco. No, Bebo, la senti questa forza? È questa forza che lo dice. Lo dicono i medici, le statistiche, la mia grinta nell'affrontare il mondo. Faccio attività fisica, così poi da vecchio posso morire in salute. Leggo i giornali online, l'approfondimento di Bifo, non ci capisco un cazzo, ma l'ho letto. Sono cresciuto un po', così posso vivere più consapevole, più triste ma più consapevole, che a pensarci non so se è un vantaggio. Non mi fermo un attimo, faccio mille cose, produco le band, progetti di nicchia, produco culti musicali, gente che rimarrà, te l'assicuro, e non entrano mai nella classifica. Ma non è quello il punto, l'importante è insistere, non mollare, guardami, non mollo, faccio l'editore, invento un prodotto editoriale, no, non è un libro, no, non è un fumetto, certo che serve, una rivista la vogliono tutti, tutti quelli che conosco, che sono molti meno di quelli che mi conoscono e molti meno di quelli che contano che vanno in classifica, loro, e non sbagliano un colpo, dicono la cosa giusta, vanno per la maggiore, però il dubbio mi resta, e manco l'ho pensato io, me l'ha rivelato Alberto. Ma sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva? Non mi do più le risposte sono da vecchi, vi faccio un altro po' di domande. Faccio le domande sui social network così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy, l'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati. Sono ancora la punta dell'iceberg, il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia, questa non è pancia, è la postura. La senti questa forza? Non sono vecchio, checco, fidati di me, ti ho mai deluso? Beh, qualche volta. Come tutti, ho deluso più spesso mia madre, mio padre, ma mi sono ripreso, gliel'ho fatto vedere che sono contato qualcosa. Non sono vecchio, è un'impressione, è la carta da parati dell'anima, il vecchio comunista, che non si dice più, sono un giovane socialista, sono un marxista, non lo faccio più il pugno alzato, ho i miti giusti, bella per Bernie Sanders, bella per Alexandria Ocasio-Cortez, rileggiamo tutto il Capitale, sono uno che sperimenta ancora.